Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, mercoledì 8 aprile 2026, ore 10:30 del mattino, l'orario in cui ogni mercoledì più o meno va in onda Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live di tutti i generi più o meno, anzi qualcuno ogni tanto lo viene tagliato, ma sicuramente di tutte le epoche. Il tutto da Radio Città Fujiko in Bologna. Siamo sul web, siamo sul DAB, siamo veramente in espansione, per cui potete tranquillamente ascoltarci in DAB in tutta l'Emilia Romagna, in Lombardia, in Toscana. Sul web invece tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. E naturalmente con quello potete ascoltarci in tutto il mondo. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e anche oggi abbiamo la novità che vi propongo, una band che non è molto conosciuta dalle nostre parti, oserei dire assolutamente sconosciuta, ma anche negli Stati Uniti, che è la loro nazione di provenienza, non è che siano proprio famosissimi, comunque sono sicuramente meritevoli di ascolto. Si chiamano American Aquarium, cioè l'acquario americano. Vengono da Raleigh nel North Carolina e sono attivi dal 2005. È una cosiddetta alternative country band, vuol dire come al solito tutto o niente, però bisogna dire che il leader si chiama B.J. Barham, il cantante suona la chitarra. In tutti questi anni, lo ripeto, dal 2005, è stato il leader e l'unico membro sempre presente all'interno della band. Hanno fatto parecchi album in studio e 3 album dal vivo. Quello che vi propongo oggi si chiama Live at Red Rocks ed è l'ultimo in ordine di tempo. Di Red Rocks parleremo diffusamente dopo, nel corso della prima parte della trasmissione. Adesso vi dirò solamente che questo album, singolo purtroppo, anche perché sicuramente gli American Aquarium non sono i leader della serata, è una specie di festival, li vedeva uniti insieme a una band che si chiama Turnpike Troubadour e un'altra band americana che è in ascesa costante, si chiama Red Clay Strays, il tutto il 9 maggio del 2024. Andiamo ad ascoltarceli, American Aquarium, il brano che ho scelto per aprire questa Città Fujiko Live Club di oggi. Si chiama I Hope He Breaks Your Heart, che è un anatema, diciamo, spero che lui ti spezzi il cuore. Loro si chiamano American Aquarium. Looking worse, and I'm still getting used to waking up on your side of the bed. And now the rumors, they start to fly, and my hope up and dies. These hangover cures, they're taking their toll on my head. All right. I should have seen it. I suppose, hell, it's written on my nose, but I never could take my eyes off you. So I hear you're with another man, and I'm doing the best that I can. Things in my life, they always end too soon. So I'm packed up and I'm moving on, and I'm tired of writing these songs. It seems like I waste all the pretty ones. Naturalmente niente di nuovo sotto il sole, la solita vecchia musica, ma quando è fatta bene e quando è così piacevole, è piacevole, scusate la ripetizione, ascoltare. Loro sono American Aquarium, il brano si chiama I Hope He Breaks Your Heart, e l'album Live at Red Rocks, l'ultimo album live e anche l'ultimo album in ordine di tempo di questi American Aquarium, guidati da BJ Barham. Devo confessarvi, ma l'ho già detto altre volte, che uno dei miei sogni è quello di stabilirmi a Red Rocks da marzo, praticamente ormai da aprile fino a ottobre, perché in quelle occasioni, in quel periodo, tutte le sere praticamente ci sono concerti, tutti di altissimo livello. Red Rocks è un sito geologico molto molto bello, andate a cercarlo su YouTube, su Wikipedia, dove volete, ed è veramente molto molto bello. Fra l'altro adesso è stato inserito, adesso da qualche anno oramai, in un grandissimo parco che lo circonda, il tutto a Morrison, una cittadina che è a 16 km a sud di Denver, in Colorado naturalmente. Il problema per chi ha una certa diciamo coscienza è che questo era un territorio degli Uti, dei Cheyenne e degli Arapahos, che sono stati bellamente sterminati, ma questo purtroppo è una cosa del passato, facciamo finta di niente, anzi no, però la vita continua in questo Red Rocks, parliamo dal punto di vista musicale a questo punto. È stato aperto addirittura nel 1906, ci suonavano le grandi orchestre, e dopo una ristrutturazione è stato riaperto, diciamo così, nel 1941. Ha una capacità di 9.525 persone ed è uno di quei teatri in discesa, cioè il palco è in fondo in basso, forse anche troppo in basso a volte, ma sicuramente tutte le sere ci sono dei grandissimi concerti, e adesso ve ne darò dimostrazione, perché sono usciti un sacco di album che si chiamano Live at Rocks o cose del genere, ma sono uscite anche tre raccolte che si chiama Carved in Stone, praticamente scolpito nella pietra, che è appunto quello che è successo a Red Rocks nel corso degli anni. E in questi tre volumi ci sono tantissime bands, alcune ce le ascolteremo e altre invece ce le ascolteremo per album in proprio. Andiamo ad iniziare con una coppia britannica, una coppia che soprattutto la prima band che vi propongo è famosissima, si chiamano semplicemente Coldplay, credo che li conosciate tutti, ma vi dirò che sono attivi dal 1997, hanno fatto 6 album dal vivo, uno dei quali si chiama Live in Love in Tokyo ed è stato pubblicato solamente in Giappone. È un giochino che faccio spesso con i miei amici, che per quel che riguarda i Coldplay conosciamo tutti Chris Martin, il cantante, chitarrista e pianista. Ditemi il nome degli altri tre, è un challenge che vi propongo. Tutto per presentare questi Coldplay, registrati il 5 giugno del 2003, e la loro Politique. We'll be right back. Everyone must find a place. Give me time and give me space. And give me real, don't give me fake. Give me strength, reserve control. And give me heart and give me soul. Give me love, give us a kiss. And tell me your own politics. Tetris. coming out of the wall. Hey, hey. Hanno suonato Red Rocks il 27 luglio del 2015, si chiamano Alt J, vengono da Leeds, sono attivi dal 2007, hanno avuto un grande successo con il loro primo album, hanno avuto un grande successo anche perché molte delle loro canzoni sono state usate in serie o spot, in serie TV o in spot pubblicitari. La Red Rocks è triplo, però abbiamo un CD, un DVD e un Blu-ray. Le ultime due sono assolutamente inutili, ma fanno lievitare il prezzo, questo è un grosso problema. Andiamo con questo pezzo che si chiama, anzi siamo già andati, con questo pezzo che si chiama The Gospel of John Hart, il tutto, come vi dicevo, registrato il 27 luglio del 2015 in quel di Red Rocks. Tonight, let's be lovers. Oh, please. sweet lover. A contribuire in maniera notevole alla fama e al lustro di Red Rocks hanno contribuito le jam bands, che per lungo tempo sono state proprietarie, fra virgolette, diciamo così, del luogo, e praticamente hanno suonato tutte le jam bands migliori in questa località, a cominciare da Grateful Dead, a finire da Dave Matthews Band, che è quella che ci siamo ascoltati adesso. Ultimamente ve lo faccio ascoltare spesso, ma ha fatto tantissime cose dal vivo. Addirittura ha una serie che si chiama Live Tracks, che potete acquistare sul suo sito. Se ricordo bene, deve essere arrivato al numero 63. E fra, al di là di questo, nella discografia ufficiale hanno fatto un sacco di live albums, di cui due registrati a Red Rocks. Questo si chiama Weekend on the Rocks, del 2005, è stato registrato dal 9 al 12 settembre del 2005, appunto. E fra parentesi, sta per uscire, uscirà alla fine di maggio, un nuovo triplo album live che si chiama Take Me Back Live at the Gorge. Sicuramente lo ascolterete, diciamo, verso giugno, appena esce Lo farò mio, e ve lo proporrò sicuramente come novità della serata. Questo brano, introdotto da uno stacco di batteria, il batterista della Dave Matthews Band, è una cosa assolutamente incredibile. Andate a vedere, se non in concerto, almeno su YouTube, perché è fantastico. Il brano si chiama Say Goodbye. Al di là delle jams band, delle jam bands, anzi, ci sono tantissimi altri artisti e gruppi che hanno suonato Red Rocks, a iniziare da quella che ci andiamo ad ascoltare adesso. Si chiama Annie DiFranco, personaggio un po' particolare, anzi molto particolare, perché lei ha iniziato come busker in quel di Buffalo, la sua città natale, Buffalo, stato di New York, e poi al primo approccio con le case discografiche ha pensato bene di lasciar stare e ha fondato una propria casa discografica che si chiama Right House Baby, per la quale lei incide, ma adesso incidono anche tanti altri, il tutto a 19 anni, per cui capirete che è un giovane prodigio, chiamiamolo così. Ha cominciato come solo act con la propria chitarra, ma poi ha inserito una sessione ritmica e poi anche le tastiere. È molto molto impegnata politicamente, soprattutto per i diritti delle donne, ma è veramente veramente supportata, diciamo, da tutta una serie di organizzazioni femminili che la vedono come un'icona. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un extended play che si chiama Play God, che contiene un brano in studio e tre brani dal vivo, due dei quali registrati proprio a Red Rocks il 4 settembre del 2016. Il brano che ho scelto è quello che dà il titolo nella versione in studio, ma questa è la versione live dell'extended play, si chiama Play God, Annie DiFranco. This is a song about reproductive freedom. The way I see it, which is as a civil right. I was done at 16, showing up for tests. I was out there in the rain, learning how to kick some ass. I was done at 16, using my mama's key. It was all on me, yeah, it was all on me. Were no free rides, were no Yeah. chance I can. And I pay my taxes like a working man. And I feel I've earned my right to choose. You don't get to play God, man. I do. You don't. You don't need no gym. E a proposito di jam bands, eccole qua, eccoli qua, anzi, Allman Brothers Band, grandissima e fantastica band dal 1969 fino al 2014, quando poi decisero di sciogliersi. Naturalmente una delle band leader di questo movimento del quale vi ho parlato la volta scorsa, e anche oggi ci siamo ascoltati diverse cose inerenti a questo jam bands movement. Ce ne sarebbero ancora altre, Bob Weir, Blues Traveler, ma il tempo è tiranno. Per cui vi lascio con una questa prima parte, naturalmente non andate via perché c'è anche la seconda, in questa prima parte a finire per ho dimenticato di dire che Allman Brothers Band è stata registrata il 12 di agosto del 2001 e il brano si chiama And Wasting Time No More. And conversations to sell. A concludere in leggerezza, chiamiamola così, questa prima parte di Città Fujiko Live Club dedicata a Red Rocks, arrivano Bare Naked Ladies, sono di Scarborough, famosissima per la fiera, in Ontario, Canada, e sono attivi dal 1988, tantissimo successo in Canada, nel 2018 sono stati introdotti alla Canadian Music Hall of Fame, e quindi capirete che sono veramente molto famosi. BNL Rocks, Red Rocks, un gioco di parole appunto fra Bare Naked Lady Rocks a Red Rocks, va bene, ok. 10 giugno 2015, il brano che ha portato loro tantissimo successo è un brano un po' cacciarone, allegro, diciamo così, anche perché si chiama Se io avessi un milione, If I Had a Million Dollars. Loro sono Bare Naked Ladies. If I had $1 million, if I had $1 million, well, I'd buy you a house, I would buy you a house. If I had $1 million, if I had $1 million, buy you furniture for your house, nice Chesterfielder ottoman. If I had $1 million, if I had $1 million, I'd buy you a K-car, nice Reliant automobile. If I had $1 million, I'd buy your love. If I had $1 million, we'd build a tree fort in the yard. If I had $1 million, you could help, it wouldn't be that hard. If I place to be. You know, for any kids in the house, I'd like to give tips for kids, because that's the kind of guy I am. If you're ever playing hide and seek, a thrown out refrigerator makes a great hiding spot. That's terrible. Don't listen to me, kids. I'm just being silly. But you know what's fun? Matches. Firecrackers. Matches are a blast. Like Wu-Tang, Bare Naked Ladies are also for the children. It's a calling. I just answer. If I had $1 million, if I had $1 million, I'd buy you a fur coat, but not a real fur coat, that's cruel. If I had $1 million, if I had $1 million, I'd buy you an exotic pet, like a llama or an emu. If I had $1 million, if I had $1 million, I'd buy you John Mayer's remains, all those crazy elephants. If I had $1 million, I'd buy your love. If I had $1 million, we wouldn't have to walk to the store. If I had $1 million, take a look. scaffolding and I'm gonna set it up on the side here and I'm gonna tag all these rocks. I've got mountains of spray paint downstairs and I'm just gonna go up there and write things like clutch. And then I'm gonna go over there and I'm gonna write Denver Styles. And then I'll figure out what the area code is and I'll write that and write like, yeah, stuff like that. But you won't be able to read it. It's gonna be amazing. You wait, next time you come to Red Rocks, it's gonna say, widespread panics with an X up there, because that's what I'm gonna write. Folks, would you sing along with us one more time? If I had a million dollars, I'd buy you a green dress, but not a real green dress, that's all. If I had a million, sing it! I'd buy you some art, a castle, or I got a condo. If I had a million, come on! of place, a lyrical sucker punch to the face. I was running on empty and life was really getting me down. Città Fujiko Live Club, seconda parte. Siamo all'8 aprile del 2026, abbiamo iniziato con la novità che vi propongo quest'oggi come sempre, novità che vi presento tutte le trasmissioni, che vi propongo in tutte le trasmissioni che apre la prima e la seconda parte. Loro sono American Aquarium, una delle migliaia, decine di migliaia di bands che girano gli Stati Uniti senza grandissimo successo, ma con grandi grandi concerti. Loro sono attivi dal 2005 e hanno fatto 3 album live. Questo è l'ultimo, appunto, che vi propongo come novità, è uscito qualche settimana fa. Si chiama semplicemente Live at Red Rocks ed è stato registrato il 9 maggio del 2024 in una serata che vedeva insieme agli American Aquarium altre bands per una sorta di festival. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama All I Needed, loro invece, lo ripeto, American Aquarium. Now we're all breaking points and broken guitar. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, so che sono tedioso, so che sono noioso, ma ci sono veramente tantissime cose registrate in questa giornata e il criterio di scelta, insindacabilmente da parte mia, è quello di un brano per ogni decade. E iniziamo dal 1971, all'epoca fu un flash, per dire, perché era il primo album live quadruplo che usciva, e 4 long play naturalmente, in un cofanetto che comprendeva anche un poster che copriva praticamente tutta una parete, credo che sia un poster, se ricordo bene, di 3 metri per 4 o qualcosa del genere. Loro si chiamano Chicago adesso, ma allora si chiamavano Chicago Transit Authority e hanno fatto un bel cambiamento nel corso degli anni, dal 1967 quando partirono. Erano molto alternativi, diciamo così. Pensate che il primo loro album si apre con una registrazione dei disordini che ci furono in occasione della Convention Democratica a Chicago, appunto la loro città. Fu un avvenimento che scosse molti animi, parlo per i più giovani, per i più vecchi forse se lo ricordano, ma i più giovani andate a vedere di cosa si trattava, perché per quel tempo fu un fatto veramente epocale. Poi dopo hanno cambiato radicalmente genere, hanno scoperto che con le ballate melense si fanno più soldi e così hanno fatto un seguito di album. Dopo il quinto album, direi, gli altri sono veramente prescindibili, ma andiamo invece ad ascoltarci questo quadruplo long playing live che si chiama semplicemente Live at Carnegie Hall, stato registrato chiaramente a New York dal 5 al 10 aprile del 1971. Il brano che ho scelto per voi è uno dei loro classici e si chiama semplicemente 25 or 6 to 4. Loro sono Chicago dal 1971. Searching for something to say. Flashing lights against the sky. Giving up, I close my eyes. una delle prime bands ad avere in pianta stabile in organico una sezione fiati, e che sezione fiati, fra i primi insieme a Blood, Sweat & Tears a cercare di unire il jazz e il rock, ma loro erano più dalla parte del rock rispetto a Blood, Sweat & Tears. Comunque, grande band questa di Chicago, che dal 5 al 10 aprile furono in concerto alla Carnegie Hall di New York City. Da quella serie di concerti fu tratto prima questo quadruplo long plane, poi dopo ci furono un quadruplo CD, se ricordo bene, con annessi naturalmente allegati tanti altri brani inediti, e poi addirittura in tempi più recenti è stato pubblicato tutto quello che è stato registrato in quella serie di concerti. Comunque non interessava questo, era l'8 aprile del 1971, 25 or 6 to 4, Chicago. Da una grande band passiamo a un grande personaggio che vorrei sperare non abbia bisogno di presentazioni. Veniva da St. Ines in California, iniziò la propria carriera con i Byrds dal 1964 al 67, più riunioni posteriori, e con Crosby, Stills, Nash & Young dal 68 al 70, anche in questo caso con altre riunioni. Poi alternava periodi solisti o periodi accompagnato insieme a Graham Nash. Naturalmente sto parlando di David Crosby, grandissimo personaggio che è veramente stato uno che ha fatto la storia della musica rock californiana e non solo. Della serie King Biscuit Flower Hour, l'album che ci andiamo ad ascoltare, è stato registrato al Tower Theater di Philadelphia l'8 aprile del 1989. Il brano è un super classico della musica californiana, Wooden Ships, le navi di legno che avrebbero dovuto portare il popolo eletto non si sa bene dove, difatti è finito malissimo, ma è sicuramente un gran bel brano. Wooden Ships, David Crosby, 8 aprile 1989. Me, I will understand, 'cause that is something everybody everywhere does it the same. Like to know, can you tell me please who won your war? Say, can I have some of your purple berries? Yes, I've been eating them for 6 or 7 weeks now. Haven't got sick ones. Probably keep us all that. Wood ships on the water, very free and easy. You know the way it's supposed to be. Silver people on the shoreline, let us be. Very free. going to set a course, and you know we will surely, surely go. Grande brano scritto insieme a Paul Kantner dei Jefferson Airplane, questa Wooden Ships, grande voce anche quella di David Crosby. Era l'8 aprile del 1989, l'album dal quale tratto è della serie King Biscuit Flower Hour, della quale vi ho parlato molto, molte volte, ma di quale oggi non ho tempo di parlare. Non ho tempo perché devo passare velocemente a Maroon Faithful, che alla mia età non può non essere stato innamorato di questa bellissima donna che iniziò la propria carriera con una canzone scritta per lei da Mick Jagger e Keith Richards, si chiamava As Tears Go By. Poi ha avuto un sacco di problemi di droga, dopo che si è un po' ristabilita ha ripreso la carriera sia musicale che cinematografica. Vi consiglio un film che si chiama Irina Palm, veramente molto bello, e poi ha fatto una serie di album dal vivo, fra cui questo che comprende un sacco di canzoni scritte da Kurt Weill e da Bertolt Brecht, scusate se è poco. Solamente lei e un pianista, il tutto registrato al New Morning di Parigi in Francia l'8 aprile 1995. Il brano che ho scelto per voi lo conoscete sicuramente nella versione dei Doors, si chiama Alabama Song, Maroon Faithful dal 1995. But we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh moon of Alabama, we must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, or you know why. Oh moon of Alabama, we must say goodbye. We've lost our good old mama must have whiskey, oh, you know why. Oh, show me the way to the next pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh moon of Alabama, we must say goodbye. We've lost our good old mama and must have boys, oh you know why. Oh moon of Alabama, we must say goodbye. We've lost our good old mama and must have boys, oh you know why. wise. Oh, show me the way to the next little dollar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollars, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. Dollars, are you know why? Sono sette elementi che provengono da Tempe in Arizona, ma ormai da diversi anni si sono stabiliti a San Diego in California. Band prettamente strumentale, principalmente strumentale, che unisce rhythm and blues, jazz, funk e tante altre cose. Si chiamano Wise Monkey Orchestra. Non sono molto famosi, credo, nelle nostre parti. Hanno fatto questo album che si chiama They Live, un album che è stato registrato in diverse occasioni, sempre però nell'ambito californiano. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Gross Skirt, è stato registrato a Winston di Ocean Beach in California, appunto, l'8 aprile del 2000. Vi ricordo Wise Monkey Orchestra, il tutto da questo album che si chiama Day Live. E subito a smentirmi, questo è uno dei pochi pezzi cantati da parte della band. Comunque andiamo avanti, passiamo al 2010 con uno dei miei personaggi preferiti degli ultimi decenni, oserei dire, visto che questo è del 2010. Lui si chiama Derek Trucks, ha iniziato la carriera giovanissimo con la Allman Brothers Band, era il nipote del batterista, quindi un po' di nepotismo anche lì, no? Ma lui se lo meritava veramente. Poi è passato a questa sua propria band, appunto la Derek Trucks Band, prima di passare nel 2010 alla Tedeschi Trucks Band, che vi ho già fatto ascoltare tante volte, del quale sto aspettando il nuovo album che mi dovrebbe arrivare proprio, se non oggi, domani. Comunque, Derek Trucks Band ha fatto parecchi album live, questo è l'ultimo. Proprio in ordine di tempo, perché dopo si sono sciolti. Si chiama Rock Songs, è stato registrato al Park West di Chicago l'8 aprile del 2010. Il brano si chiama Down in the Flood. Loro sono Derek Trucks Band, che poi in pratica si sarebbero tutti riversati nella Tedeschi Trucks Band, ma questa è un'altra storia. South for South, GP4, Derek Trucks Band, grande chitarrista Derek Trucks, l'album si chiama Road Songs, doppio live, è stato registrato al Park West di Chicago l'8 aprile del 2010, Down in the Flood, il brano che ci siamo ascoltati. Molto velocemente a concludere Città Fujiko Live Club e Recorded Today arrivano il Big Something, un'altra jam band, scusate, oggi va così, viene da Burlington, North Carolina ed è attiva dal 2009. E il brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da un festival che si chiama Swinging Rising, registrato a Live Oak in Florida l'8 aprile del 2021. Vi ricordo che appunto che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club ogni mercoledì dalle 10.30 del mattino, un paio di ore di musica dal vivo e naturalmente l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Vi ringrazio per l'ascolto, Big Something, Time Bomb, quello che ci siamo invitati, per fortuna il tempo delle bombe non era proprio il caso. Grazie di nuovo per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio. Sometimes you slip with the